Scioperiamo perché i lavoratori dell'industria metalmeccanica che hanno il contratto Federmeccanica hanno il contratto scaduto da dicembre scorso e oggi è esattamente un anno dall'inizio delle trattative per il rinnovo del contratto e per un intero anno la Federmeccanica non ha mai voluto discutere di aumenti salariali veri. Quindi il 7 ottobre si è rotta la trattativa sul nodo centrale del salario, ma anche sugli altri punti le distanze erano c'erano ampie e quindi oggi Finfin Women hanno indetto 4 ore di sciopero che seguono le due fatte la settimana scorsa e anche una ondata di scioperi spontanei subito dopo la rottura della trattativa, perché bisogna riprendere il negoziato e bisogna raggiungere un giusto rinnovo del contratto nazionale che dia anche risposte sul tema salariale. Anche nelle ultime ore Federmeccanica ha adotto l'argomentazione della crisi scatenata dal Covid, è reale o è una scusa? Non è che prima ci volevano dare gli aumenti, hanno cambiato idea dopo la pandemia. Tra l'altro le imprese che si sono dovute fermare hanno utilizzato la cassa Covid è stata riconosciuta dallo Stato, quindi non hanno cambiato un'impostazione che era di riconoscere unicamente gli aumenti economici legati all'inflazione, inflazione che non è prevista per i prossimi anni, quindi bisogna cambiare passo su questo aspetto. Sottolineo che oggi lo sciopero sta andando molto bene, siamo qui davanti alla Ducati dove lo sciopero è oltre il 95% e le linee sono ferme, quindi anche i pochi che sono entrati non riescono a tenere accese le linee. Dopo questo sciopero penso che da Bologna deve arrivare un messaggio che abbiamo bisogno di un forte contratto nazionale che sia da base per continuare a sviluppare una contrattazione avanzata che affronti anche i grandi temi del nostro tempo. A proposito appunto dell'andamento dello sciopero, avete previsto diversi presidi anche per evitare le concentrazioni, quanti sono, come sta andando? Sta andando bene, sono contento che insieme a Fime Wilma abbiamo organizzato a Bologna questa idea che poi è stata riprodotta a livello regionale di moltiplicare il numero di iniziative, quindi tante iniziative con presidi davanti alle fabbriche, anche perché lo sciopero deve riuscire e quindi se i colleghi di lavoro sanno che davanti al cancello della loro fabbrica c'è il sindacato con le bandiere, con i compagni, magari anche chi aveva qualche dubbio decide di aderire allo sciopero. Ci sono scioperi che da Lima di Ozzano, passando per la 3F di Pianoro, la Caterpillar di Minerbio, la Bonfiglioli a Calderara, Lamborghini a Sant'Agata, la Ducati ovviamente a Borgo Panigale, poi la Fini Compressori a Zola, la Manz a Sasso Marconi, la Philips Saeco in montagna, passando per la Sampa Bentivoglio, la Corazza nella prima periferia bolognese, insomma le più importanti aziende metalmeccaniche hanno oggi un presidio davanti ai cancelli e tutti i presidi sono collegati appunto sia in una diretta Facebook che una diretta, in modo tale che si moltiplicano gli interventi dei delegati che sono davvero quella risorsa straordinaria, delegati e delegate di Finfin Wilm che hanno lavorato nei mesi più difficili per tenere aperte le aziende, per metterle in sicurezza, scioperando quando non erano garantite le condizioni di sicurezza e che in queste settimane hanno realizzato insieme a noi una straordinaria campagna di assemblee che ha prodotto la riuscita della giornata di oggi. Nella vostra piattaforma voi parlate anche di innovazione. L'industria metalmeccanica ha diversi livelli di innovazione, quale dovrebbe essere la strada e cosa intendete appunto per innovazione? Sicuramente colleghiamo gli investimenti nella cosiddetta industria 4.0, quindi nell'incrocio automazione digitale, con la possibilità che la nuova rivoluzione industriale produca una riduzione degli orari di lavoro. In tutti i grandi passaggi storici, in tutte le grandi rivoluzioni industriali si è usciti riducendo gli orari di lavoro e intorno al tema dell'orario si giocano alcuni aspetti, la formazione e quindi il diritto dei lavoratori di formarsi, qualificarsi in orario di lavoro riducendo l'orario. Si gioca la possibilità di lavorare meno, lavorare tutti, di lavorare meglio, la conciliazione tra il tempo di vita e tempo di lavoro. Nell'innovazione però ci stanno anche la nostra ambizione di sviluppare modelli avanzati di relazioni industriali per cui i lavoratori attraverso il sindacato partecipino anche alla discussione su quali prodotti bisogna sviluppare per andare verso una società ecosostenibile, avendo sempre a riferimento che siamo anche dentro un'emergenza climatica.